Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. E buongiorno a voi. Dai tempi di Dante il nostro cammino si è notevolmente allungato, ma lo ha fatto repentinamente. Pensate che all'inizio del secolo scorso in Italia la vita media era arrivata a 45 anni, attualmente è di ben oltre 70. Secondo l'Istat, nel nostro paese la speranza di vita è arrivata a 79 anni per gli uomini e a 84 anni per le donne. Insomma, cari amici, ce la caviamo bene, battiamo anche gli elefanti che hanno una vita media di circa 70 anni e forse le balene che vivono mediamente una cinquantina. Insomma, per ritornare al cammino, abbiamo buone probabilità di fare tanta strada. Da una gita fuori porta siamo passati alla via Francigena e ci auguriamo di percorrerla restando in gamba. È una condizione a cui, lo sappiamo bene, concorrono tanti fattori. In linea con noi abbiamo la dottoressa Luini, che insieme al professor Veronesi ha scritto un libro che, se vogliamo, è un manuale di viaggio, di buon viaggio, indicazioni, istruzioni e riflessioni per un cammino lungo, sano e felice. Il libro si intitola Longevità, ne abbiamo già parlato, ma ci ritorniamo volentieri lì insieme all'autrice, la dottoressa Giovanna Luini. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, Nicoletta. Buongiorno a tutti. Longevità. Ce l'auguriamo tutte di diventare longevi. Sì, di diventare longevi bene, perché effettivamente è vero, la vita è un cammino. E allora il cammino è fatto di passi e possiamo scegliere quali passi fare. Per la longevità bella, cioè quella in buona salute, in buone condizioni, tre sono i passi fondamentali. Il primo, la creatività. Si è visto che la creatività, cioè esprimere se stessi liberamente, tirando fuori la passione, è l'elemento che più di tutti favorisce la longevità. Il secondo passo è l'alimentazione, lo sappiamo tutti, alimentarsi in modo sano e corretto, anche in modo piacevole, ma con la testa, rappresenta un passo fondamentale per essere longevi. E poi abbiamo l'esercizio fisico. L'esercizio fisico nel nostro cammino è fondamentale. È vero che forse non allunga la vita, perché gli studi non hanno dimostrato questo, però sicuramente la migliora, ci aiuta a essere in salute. Non so quanto sarà lunga la mia vita, ma con l'esercizio fisico sicuramente è più sana, è migliore. E l'esercizio fisico, ricordiamolo, aumenta anche il tono dell'umore, quindi l'esercizio fisico nel nostro cammino è il passo più importante dal punto di vista del fitness, cioè del benessere globale. E allora, passo dopo passo, possiamo diventare bene longevi. Grazie, dottoressa Luini, sembrano tre passi semplici e anche molto piacevoli che ci portano lontano. Buona giornata a lei, a presto. A voi, buongiorno. Regina Reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello con la fede, con l'anello, con la punta del coltello? Dipende, potrebbe rispondere la regina. Il numero di passi varia in funzione di quello che vuoi ottenere e di quello che hai bisogno di mantenere. In studio con me ho il piacere di avere il dottor Gianluca Mellegatti. Buongiorno. Buongiorno, Nicoletta. Medico sportivo primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che passo dopo passo nel corso della nostra trasmissione ci spiegherà come e perché qualche passo in più può aiutarci a vivere bene. Ah beh, senz'altro. Sfondo una porta aperta. Sfondi una porta aperta, perché quando parliamo di esercizio fisico, intanto sono totalmente d'accordo con quanto detto dalla dottoressa Luini. L'esercizio fisico è fondamentale ed è da considerare come una vera e propria terapia. Mm-hmm. Quindi non solo ci permette di prevenire le malattie o gli infortuni, ma ci permette anche di curare le malattie. E il cammino è la forma più semplice che abbiamo a disposizione come esercizio fisico. E quindi noi sappiamo che se non ci sono studi che direttamente dimostrano che allunga la vita, indirettamente sì, perché esistono fior di studi che dicono che si possono prevenire malattie anche importanti proprio con l'esercizio fisico e col cammino nello specifico. E quando parlo di malattie importanti parlo di malattie tumorali, parlo di osteoporosi, parlo di depressione. Parlo della capacità, per esempio, per quanto riguarda gli anziani, di rimanere attivi mentalmente e di rimanere quindi autonomi, quindi una situazione straordinariamente importante per la nostra vita sociale. Da dove si comincia? I muscoli si tendono. Una gamba è il pilastro che sostiene il corpo eretto tra cielo e terra. L'altra, un pendolo che oscilla da dietro. Il tallone tocca terra. Tutto il peso del corpo rolla in avanti sull'avampiede. L'alluce prende il largo ed ecco il peso del corpo in delicato equilibrio si sposta di nuovo. Le gambe si danno il cambio. Si parte con un passo, poi un altro e un altro ancora che, sommandosi come lievi colpi su un tamburo, formano un ritmo. Il ritmo del camminare. La cosa più ovvia e più oscura del mondo è questo camminare, che si smarrisce così facilmente nella religione, la filosofia, il paesaggio, la politica urbana, l'anatomia, l'allegoria e il crepacuore. Rebecca Solnit. Rebecca Solnit è una scrittrice americana che si occupa di ambiente e di politica, è autrice di Storia di camminare, un libro che racconta cosa significa uscire da uno spazio chiuso e iniziare a camminare nel mondo, nelle città o nelle campagne, in mezzo a una marcia di protesta o un pellegrinaggio. Se siete camminatori, 800 24 00 24. Se volete provare a incamminarvi nella strada del benessere insieme a noi, utilizzando proprio il passo, pochi passi al giorno per stare bene, chiamateci 800 24 00 24. Il ritmo del cammino, dottor Melegatti, è un po' come il ritmo del respiro e uno condiziona l'altro. Ci dia un po' il ritmo. Quanti passi dobbiamo fare? Allora, tutte le più accreditate tutti i più accreditati studi indicano come una camminata di 30 minuti al giorno, 5 volte alla settimana, come appunto un'attività che previene le malattie e che ci aiuta a stare meglio, a vivere meglio. E naturalmente questo per persone sedentarie, quindi sì, persone non allenate. C'è anche la possibilità di utilizzare il cammino per mantenere una forma fisica o per migliorare addirittura una forma fisica, quindi una sorta un po' di attività propedeutica ad altri sport più complessi. Quindi il cammino, che è straordinariamente semplice ma complesso allo stesso tempo, ci permette veramente un ventaglio di possibilità. Sì, possiamo modularlo in base alle nostre esigenze e quindi utilizzarlo un po' come palestra se vogliamo perdere, certo, un po' magari qualche chiletto. Certamente. Utilizzarlo per migliorare il nostro apparato cardiocircolatorio, utilizzarlo per migliorare la resistenza delle nostre ossa nelle donne che hanno osteoporosi. È veramente naturale. E la straordinarietà del cammino è che è un'attività naturale, se ci pensi è un'attività involontaria, a parte quando decidiamo di partire e di fermarsi o di cambiare direzione, ma quando andiamo spediti lo facciamo automaticamente, e questo con una facilità straordinaria, perché il nostro corpo è una macchina incredibile e mette in attività decine e decine di muscoli per permetterci il cammino, la cui complessità è legata, come dicevo, alla propulsione, quindi ci permette di andare avanti, ci permette di tornare indietro, ma ci permette anche di mantenere l'equilibrio e di riuscire a gestire i terreni anche sconnessi, evitando di cadere. Quindi ai nostri alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori possiamo dire: ditemi di che cosa avete bisogno, certo, che cosa volete fare, noi vi diciamo un consiglio pratico su come gestire la camminata, quanti passi dovete fare arrivare al castello del benessere. Esattamente. Mi scrive un'amica da Livorno, Sabrina, che vuole sapere se la sua mamma, con entrambe le anche con protesi, può passeggiare liberamente. Bene, allora tocchiamo un punto naturalmente importante. Il cammino purtroppo è per quasi tutti, ma non per tutti. Ci sono delle situazioni che non favoriscono il cammino, perlomeno per come l'abbiamo indicato prima. Persone che hanno patologie artrosiche a livello delle anche, delle ginocchia, delle caviglie, persone che hanno gravi problemi a livello della colonna devono gestire con molta attenzione il cammino, utilizzando delle scarpe ammortizzate, facendo delle pause molto frequenti e quindi gestendo la cosa. Dallo struscio al fit walking, dottor Melegatti, ci sono tanti modi, no, di camminare, ma certo, una cosa è certa: per camminare ci vogliono buoni piedi, buone scarpe. Certamente. Di qua non si scappa. Sì, per quanto riguarda le scarpe è semplice, perché basta un paio di scarpe che rispettino la fisiologia del piede, e il mercato ne è pieno di tutti i prezzi. Non c'è bisogno di prendere le scarpe top che prendono le persone che corrono, perché la corsa ha un impatto traumatico ben diverso sul nostro organismo, il cammino fortunatamente meno. Quindi un buon paio di scarpe e una cura dei piedi. I piedi devono essere naturalmente curati per una persona che decide di intraprendere un allenamento fatto di cammino. Devono essere curati nel senso che bisogna stare attento alle vesciche e bisogna magari fare una valutazione iniziale per quanto riguarda la necessità o meno l'opportunità di una soletta plantare. E va bene, adesso ci provo, eh. Attenzione, vado, è meglio che il resto. Ma sono ore che ci prova, ma allora è deficiente. Ecco. Che vado. Ecco, mi muovo. Ce l'ho fatta. Si sta muovendo. Cammina. Punta diritto verso i miei giocattoli. Beh, bene. Ma momento, forse è meglio che le spieghi cosa sono i giocattoli prima che li distrugga. È già arrivata. È una camminata un po' incerta, quella dei pimpassi dei nostri bambini. All'improvviso si alzano e camminano. Beh, un momento fantastico. In linea con noi abbiamo il professor Luca Bernardo, che è tornato a trovarci, direttore della divisione pediatrica dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore, quando è che il bambino muove i primi passi? Quando dobbiamo aspettarcelo? Generalmente i primi passi vengono mossi tra l'11° e il 12° mese. Diciamo che prima ci sono delle avvisaglie, per esempio a 5 mesi, se lo si mette in piedi in equilibrio sulle proprie cosce, quindi il papà, la mamma o i nonni, rimbalzerà su e giù. Ad 8 mesi, per esempio, potrà incominciare a cercare di alzarsi in piedi, quindi lo si può agevolare ma non forzare, questo è fondamentale. Come a 9-10 mesi, per esempio, comincerà a capire come piegare le ginocchia e sedersi dopo essere stati in piedi, che è una cosa particolarmente difficile, ma che riescono già a fare a quest'età. Professore, ci sono bambini che iniziano a gattonare molto presto e si dice: se gattona camminerà più tardi, è vero o non è vero? No, diciamo, non è proprio così direttamente collegabile, nel senso che il gattonamento è un momento importante e fondamentale dello sviluppo anche, diciamo, motorio del bambino. Io a battuta dico sempre, come si dice per altre cose, guarda come cammina e ti dirò chi sei. Nel senso che il cammino dice veramente tante cose, ma anche il gattonamento, nel senso che il fatto che gattonino, quindi che vadano a 4 zampe su una superficie, è fondamentale e importante. Ma ci sono dei bambini assolutamente normali, sia dal punto di vista clinico che neuromotorio, che a volte saltano il gattonamento e passano direttamente all'alzarsi e appoggiarsi al mobile per muovere i primi passi. Professore, ci sono, io li vedo ancora, bambini che vengono iniziati al cammino con il girello. Volevo sapere un po' il suo parere su questo sostegno con le ruote che viene utilizzato ancora in molte famiglie. Sì. Io oggettivamente il girello non è consigliabile, anzi in questo senso è sconsigliabile. Perché ricordo che il cammino non è importante solo dal punto di vista clinico, neuromotorio, ma è importante appunto anche perché è un momento di conoscere, di fare esperienza del bambino, e il solo appoggio dei genitori credo che sia importante, uno per il rapporto mamma-papà-bambino e viceversa, ma anche per un minimo di sostegno. Il girello non solo potrebbe impedire alcuni movimenti, ma non risulterebbero naturali come quello che invece è l'esperienza del bambino in quel momento di cammino. Dottor Melegatti, i piedi dei bambini sono piatti, dei piccoli ferri da stiro. Yes. Questo ci preoccupa sempre un po', ma come si dice, cammin facendo, il piede nella maggior parte dei casi si trasforma sino ad assumere la conformazione corretta. Sì, non deve preoccupare assolutamente, è assolutamente fisiologico per un bambino avere un piede piatto. Il piede piatto è dovuto all'immaturità dei tessuti che sostengono e che sosterranno poi la volta plantare, e quindi è una sorta di modo per conoscere l'ambiente che lo circonda, e quindi il piede piatto è necessario per il bambino proprio per stimolare quegli stimoli che poi favoriranno il piede strutturato, il piede dell'adulto. E quindi non bisogna essere assolutamente date tempo al piede. Professor Bernardo, prima di salutarlo, pediatri e medici consigliano sempre ai genitori di, almeno in casa e poi quando è possibile magari al mare, sulla spiaggia, di lasciare camminare i bambini a piedi nudi. Ma in casa i genitori spesso sono preoccupati perché arriva l'inverno e se faccio camminare a piedi nudi il bambino si prende il raffreddore. Questo è un po' un tormentone che ritorna. Sì, un po' come le canzoni estive. Sì. Diciamo che al mare è sicuramente consigliato che il bambino cammini, ovviamente dove è possibile, a piede completamente nudo o comunque con delle scarpine che abbiano un minimo di sostegno dal punto di vista della soletta sottostante la scarpa. L'importante invece, secondo me, in città piuttosto che in campagna, al mare, comunque in casa, che continuino a viaggiare con il loro piedino, ma magari con una calza antiscivolo, proprio per evitare anche qualche scivolone che può dare qualche preoccupazione o qualche piccolo trauma. Io invece quello che secondo me è importante consigliare ai genitori è, nel momento in cui i propri bambini, soprattutto all'interno delle abitazioni, iniziano a camminare e quindi mettono in moto anche tutti i meccanismi di curiosità e di esperienza, copriprese, paraspigoli, porte chiuse della cucina e dei bagni, non mettere mai i detersivi alla loro altezza, perché ovviamente camminano, si muovono e possono diventare dei pericoli. Sì, perché improvvisamente riescono poi ad afferrare tutto e arrivano. Quando camminano, attenzione, si arrampicano anche. Professor Bernardo, grazie per essere stato con noi. La ringrazio e la saluto. Grazie a voi, buona giornata. Abbiamo Giovanni che ci chiama dalla provincia di Pisa, 800 24 00 24. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi, grazie per la trasmissione perché è molto intrigante. Io non parlo dal punto di vista medico di camminare, ma dal punto di vista di chi cammina. Io ho fatto tantissimi cammini, cammino lento, il viaggio, perché i viaggi non si fa in macchina facciamo il trasferimento, i viaggi si fanno a piedi. Io sono un appassionato di cammini, Santiago, la Francigena, il Cammino di Francesco, e andiamo alla riscoperta, camminando lentamente, delle nostre radici, dei nostri paesaggi, di quelle cose che purtroppo abbiamo perduto nel nostro modo di vita di oggi. Ed è salutare tutto questo perché lo facciamo in compagnia, la condivisione, condividiamo tante cose, le vesciche, come diceva il dottore, aiutiamo coloro che hanno le vesciche a magari a sistemarsele, a bucarle, a cucirle. È molto bello questo, insomma, la condivisione di un cammino, e fa molto bene, oltre che penso alla salute, oltre che io ho 64 anni e penso che posso di camminare, e è molto bello il discorso di essere insieme, di recuperare quel trasmettersi l'un l'altro quelle cose che purtroppo nel nostro mondo di matti, perché se uno fa un cammino quando ritorna poi è difficile, ci vuole una settimana per riambientarsi. E quindi è molto bello questa condivisione, questo modo di stare insieme, di capire le curiosità dei posti che attraversiamo. E diventa proprio, come aveva anticipato anche il dottor Mellegatti, terapeutico. Io penso che sia anche un cammino dentro. Per il fisico e per la mente. Si cammina con i piedi, ma con il cuore e con la mente. Grazie a Giovanni che ci ha chiamato dalla provincia di Pisa. Allora, dottor Mellegatti, il tipo di camminata ci dà delle informazioni importanti sulla nostra postura e credo che possa essere utilizzato anche come segnale predittivo della nostra salute articolare e muscolare futura. È corretto. Osservando una persona che cammina possiamo capire tanto dei suoi problemi attuali e futuri. Problemi a livello del ginocchio, a livello dell'anca, a livello della schiena. Persone che camminano con un ginocchio varo o valgo sono destinate purtroppo ad avere un peggioramento della situazione articolare della propria articolazione del proprio ginocchio. È chiaro che questo però dipende dalla intensità dello sport, del cammino e dell'attività fisica che uno fa. Quindi in generale è sempre positivo camminare e muoversi per persone che hanno un atteggiamento posturale oppure dei deficit posturali importanti. È bene correggerli per quanto possibile e gestire bene l'attività, anche l'attività del cammino, modulandola a seconda delle necessità. Abbiamo Maria Rosa dalla provincia di Milano, poi una Maria dalla provincia di Brescia. Buongiorno Maria Rosa, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi per avermi richiamato e sarò brevissima. Ho 59 anni e recentemente ho fatto la MOC. Sì. E purtroppo la diagnosi è stata alto rischio fratture. Allora mi è stato detto devi camminare. Sì, perché l'attività fisica è una sorta di massaggio per le nostre ossa. Diciamo infatti, di sì. Diciamo però, di sì. Mm. Io ho male alle ginocchia. Questa osteoporosi è stata localizzata soprattutto alla L4, se ben ricordo. Allora mi chiedo. Cosa faccio? Cosa faccio? Cammino, faccio acqua gym, faccio nuoto, faccio ciclette, mi rompo del tutto? Non lo so. No, aspetti Maria Rosa. Innanzitutto dobbiamo considerare l'attività fisica come uno dei presidi per curare un'osteoporosi di un certo grado. Quindi non possiamo dimenticare l'alimentazione e i farmaci. Dopodiché l'attività fisica diventa altrettanto importante e quindi è un presidio insostituibile. L'attività fisica che deve essere, come dicevo poc'anzi, correlata alle possibilità del soggetto. Se la signora Maria Rosa ha dolore alle ginocchia, intanto bisogna capire perché. Probabilmente è un problema legato a una situazione artrosica, ma c'è possibilità di correre, di camminare e quindi di fare un buon allenamento per l'osteoporosi anche con un po' di dolore alle ginocchia. Bisogna trattare questo dolore e poi gestire bene la camminata. Ecco, il dolore che noi avvertiamo quando facciamo una camminata, una gita fuori porta, andiamo in salita, andiamo in discesa, ci racconta anche molto della nostra situazione muscolare. Certo. Possiamo, quando avvertiamo un dolore, capire che cosa è successo e se il nostro è un allenamento che non è stato fatto in modo adeguato, magari oppure abbiamo un appoggio del piede sbagliato, calzature non adeguate. Sì, si può capire, insomma, si può porre rimedio a una situazione del genere. Se dopo alcuni minuti o alcuni chilometri sopraggiunge un dolore articolare oppure un dolore alla schiena, questo è un campanello d'allarme che ci induce a occuparci di questo dolore e a non sottovalutarlo, a meno che non sia un fastidio temporaneo, e quindi consultare una persona che possa aiutarci a riprendere il cammino. Maria dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno e intanto buona giornata a tutti e grazie proprio di queste trasmissioni che sono interessantissime. Dunque il mio problema è questo: io ho 81 anni, ho avuto esperienze motorie piuttosto intense fino a 55 anni. A un certo momento ho continuato a camminare con tre dislivelli, uno piuttosto leggero, medio e trascinando anche le mie amiche, 40-45 minuti al giorno. Brava. Sempre. A un certo momento, 15 o 20 giorni fa, facendo un gradino, ho sentito un dolore lancinante al ginocchio destro. Io so di avere le ginocchia valghe, sì. Quindi ho immaginato subito qualcosa o al menisco esterno che era già stato sbrecciato, oppure qualcosa di insomma, più grave. Insomma, lì nei dintorni. Fuori che ho la cartilagine consumata nella parte esterna. Certo. Ecco. Ora chiedo, posso io continuare? Perché guai se non si scopre. No, mi sembra che Maria a casa non la si possa tenere, anzi, trascina anche le amiche. Certo. È un ottimo personal trainer. Quindi è indubbio che Maria debba continuare a camminare, però lo deve fare in tutta sicurezza. Quindi se dovesse continuare a camminare col dolore, le cose peggiorerebbero di parecchio in un ginocchio valgo in una persona di 81 anni. Quindi bisogna fermarsi, diminuire i livelli di infiammazione del ginocchio con una visita, con quindi poi una terapia, con magari un lavoro muscolare che possa tutelare meglio l'articolazione del ginocchio e sostituire temporaneamente al cammino un'altra attività in scarico, come per esempio il cammino in acqua oppure la bicicletta, per poi riprendere il cammino in tutta sicurezza. E per chi vuole dimagrire, un ascoltatore mi ha scritto: voglio dimagrire camminando, Luciana, anzi, devo perdere 10 kg con il cammino, devo camminare, quanto? Allora, al giorno e per quanto tempo? Intanto il mio consiglio è quello sicuramente di camminare, ma di dare un occhio anche alla dieta, che non deve essere una dieta troppo aggressiva, però deve essere una dieta che faccia attenzione soprattutto al quantitativo di cibo introdotto. E poi il cammino è straordinariamente utile per dimagrire, bisogna farlo bene. Alcuni dicono che il cammino lento fa dimagrire di più rispetto al cammino veloce, proprio perché il cammino veloce mette in atto una sorta di risparmio di energia per dei meccanismi. Il mio consiglio è tuttavia di fare comunque un cammino veloce, perché chi fa un cammino lento comunque non riesce a camminare per lo stesso numero di chilometri di chi fa un cammino veloce. Quindi il mio consiglio per dimagrire è cammino veloce, a un passo abbastanza spedito, non eccessivo, tra i 30 e i 40 minuti al giorno per almeno 5 giorni alla settimana. 30-40 minuti di fila, però. Di fila. Questo per persone che lo possono fare. L'alternativa è quella di dividere questi 30-40 minuti in due o tre step durante il giorno. L'uomo è un animale e la sua felicità dipende dalla sua fisiologia più che egli non ami pensare. Questa è un'umile conclusione, ma non posso convincermi che sia errata. Sono convinto che molti uomini d'affari molto infelici aumenterebbero la loro felicità assai più se facessero a piedi 10 chilometri tutti i giorni, che non per mezzo di un qualunque cambiamento di filosofia. Questa, detto per inciso, era l'opinione di Jefferson, che per tali motivi deplorava l'uso del cavallo. Se avesse potuto prevedere l'automobile, gli sarebbero mancate le parole sufficienti a dire quel che provava. Bertrand Russell. Il cammino, potente attivatore di cambiamento e di conoscenze. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Carla Perrotti, chiamata la signora dei deserti. Buongiorno signora e benvenuta. Buongiorno signora Nicoletta e buongiorno dottor Melegatti. Buongiorno. Lei deve avere quello che alcuni ricercatori hanno definito il fattore Ulisse, un gene che predispone all'avventura, all'esplorazione, perché ha attraversato 7 deserti. E più volte ha scritto e raccontato nelle sue interviste che affrontare il deserto significa mettersi in gioco, quindi non è una prova sportiva, ma proprio è un esercizio della mente, e che dal deserto si torna cambiati, tanto che le camminate nel deserto voi le chiamate desert therapy. È vero? È vero, quello che dice è esattamente quello che succede. Il deserto è un luogo particolare che è molto temuto, perché la maggior parte delle persone ovviamente non lo conosce, e mentre invece sembra paradossale, è un luogo che dà un grande senso di protezione, e questo lo dicono tutti coloro che per la prima volta incontrano il deserto. Quindi non va temuto il deserto, va capito, va incontrato, va conosciuto, scoperto e poi amato. Signora Perrotti, lei per 5 deserti ha camminato da sola, poi ha deciso di condividere le sue esperienze con altri, con un'altra persona in particolare, che è Fabio Pasinetti, che è un atleta non vedente. Avete camminato nel deserto bianco egiziano, 250 chilometri, tutto raccontato in un libro che è poi in realtà un diario, si intitola Lo sguardo oltre le dune, un libro che io consiglio vivamente agli ascoltatori di Essere Benessere, perché è proprio un viaggio raccontato con il cuore e con la mente. Signora Perrotti, che cosa è rimasto di questo viaggio? Come l'ha cambiata? A camminare accanto a un non vedente, essere guida? Ma è stato molto difficile all'inizio, perché sentivo addosso una grandissima responsabilità. Io ero garante dell'incolumità di Fabio. Però avevo deciso di accettare la sfida, perché dopo appunto tanti deserti percorsi da sola mi era sembrato giusto far riconoscere anche ad altri la magia di questo luogo, dare ad altri la possibilità di vivere quelle emozioni. Quindi quando ho accompagnato Fabio mi sono resa conto che anche Fabio, pur non vedendo il deserto, l'aveva capito e quando è uscita mi ha detto: io sono cambiato, questa esperienza mi ha cambiato completamente la vita. Quindi questo percorso di condivisione è stato per me una scoperta incredibile. Io che ero così gelosa dei miei deserti, mi sono accorta invece che condividerlo con altri, in particolare con lui, appunto, che non avrebbe mai potuto percorrerlo da solo, è stato un grande regalo. E da lì poi è nata Desert Therapy, perché questa voglia di condividerlo con altri è continuata, e attualmente sono 3 anni e accompagno persone normali, diciamo così, di ogni età a camminare con me, perché credo che ne valga la pena. E sono venute con me persone dai 14 ai 77 anni, quindi non c'è un limite. Questa è l'esperienza straordinaria del cammino, è proprio un'esperienza che consente di, e lei lo ha dimostrato, di superare le barriere imposte dall'handicap, ma anche credo di raggiungere nuovi traguardi, no? Di se stessi, quindi superare delle barriere che noi ci mettiamo. Sì, questi nostri limiti, che poi in realtà non sono spesso reali, ma sono delle scuse, ecco, per non metterci in gioco. Io quando dico spingiamo un pochino in avanti, facciamo quei passi in più, vuol dire cercare di spostare i nostri limiti, che sono poi quelli che in qualche modo ci bloccano, anche nelle piccole cose, anche nel quotidiano. E quindi proprio il deserto a me ha insegnato questo, insomma, che il limite vero non esiste, solo dentro di noi. Bisogna avere il coraggio di andare avanti e di spostarlo. Non grazie. Io ho un'età non più giovanissima e continuo a camminare nei deserti. Grazie per essere stato con noi. Buona grazie giornata. Grazie. La seconda fase è quella del sogno e della scoperta. Il corpo, agguerrito, si fa dimenticare. Allora si presta più attenzione all'ambiente, agli incontri. Si è più disponibili ad ascoltare gli altri e nei momenti di solitudine ad ascoltare se stessi. Lontano da telefoni, sollecitazioni, preoccupazioni concrete e dal quotidiano, l'immaginazione la fa da padrona. E ben presto ecco il quesito: cos'è importante nella mia vita? Le risposte giungono a sprazzi, progressivamente. Libero dalle contingenze, l'avere scompare davanti all'essere. Ed è qui che il cammino rivela il suo segreto. Si pensava di andare verso gli altri e invece si è arrivati a se stessi. Bernard Olivier. Dottor Melegatti, è straordinario come il fisico possa cambiare la mente. È vero, è vero. Sono d'accordissimo. E io proprio ho molte testimonianze degli ascoltatori che stanno scrivendo e mi stanno raccontando che camminando il cammino proprio è entrato nella loro vita, certo. Cambiato, è diventato uno stile di vita, ma anche di un modo di affrontare un sì, po' sì. La vita, no? È uno dei modi che abbiamo a disposizione più semplici, più pratici, che veramente ci può cambiare la vita. Siamo nati per camminare. Dobbiamo tornare al cammino. Assolutamente. E cammin facendo, adesso è una stagione magnifica per il cammino, non fa certo. Più caldo, non fa ancora freddo e molti di noi approfitteranno del weekend per fare ancora delle gite fuori porta e il cammino può diventare una scoperta per raccogliere ad esempio le erbe che crescono ancora lungo i giardini, lungo i campi, percorsi magari in montagna. Allora noi vogliamo andare a cercare le erbe senza prendere granchi, vogliamo prendere le erbe naturalmente che ci piacciono, che ci fanno bene, erbe salutari, e andiamo in cerca di erbe con un grande esperto, il dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno, che è tornato a trovarci, benvenuto. Buongiorno, sì, eccoci. In effetti è proprio così, a parte il deserto, tra le piante in cui ci si può imbattere in questa stagione, nelle gite fuori porta ce ne sono alcune particolarmente note, anche facilmente riconoscibili e apprezzate sotto il profilo erboristico-salutistico. La prima è la malva, la cui stagione sta per finire ma ancora si ritrova, è una pianta molto diffusa, facile da incontrare e ben riconoscibile per i suoi bei fiori grandi rosa violacei. Si ritrova negli incolti, ai margini delle strade, anche nei prati e nei giardini. Della malva si usano le foglie e i fiori, che sono particolarmente ricchi di mucillagini, principi attivi a cui si devono le proprietà antinfiammatorie e anche lassative della malva, che infatti è utilizzata in irritazioni, infiammazioni, in primo luogo quelle dell'apparato respiratorio come la bronchite e la tosse, ma anche per normalizzare le funzioni di stomaco come nel reflusso gastroesofageo, nei bruciori di stomaco e nell'intestino. Un'altra erba un po' meno facile da incontrare, ma molto interessante, è il partenio, che è formidabile contro cefalee ed emicranie. Questa è una pianta che si può trovare fiorita fino a novembre, alta fino a 80 centimetri, con dei bei fiori bianchi e gialli che ricordano grossolanamente le margherite, infatti è della stessa famiglia. Si ritrova nei terreni incolti, vicino ai ruderi, e diversi studi hanno dimostrato l'efficacia di estratti di partenio nel prevenire il mal di testa, quindi non tanto nel trattarlo. Assunto quotidianamente per periodi anche relativamente lunghi, diminuisce frequenza e severità degli episodi di emicrania. È una pianta perfetta per chi ne soffre periodicamente. L'ultima pianta, notissima sotto il profilo salutistico, è l'iperico, che è l'erba più apprezzata contro la depressione, come è noto. Le proprietà dell'iperico di sostegno del tono dell'umore sono scientificamente dimostrate e si devono a un suo principio attivo, in primo luogo chiamato ipericina. Anche l'iperico sta terminando con settembre il suo periodo di fioritura, ma lo potete incontrare se andate a fare una passeggiata nei boschi, ai lati dei sentieri, negli incolti ben esposti al sole, e lo riconoscete perché ha dei fusti legnosi alti qualche decina di centimetri con tanti fiori giallo dorati. Un'ultimissima cosa, un'indicazione, avvertimento: se non siete più che esperti, non raccogliete le piante in giro, Nicoletta, appunto. Perché potreste sbagliare pianta e, bene che vi vada, assumerne una inutile, male che vi vada, pericolosa. Sì, quindi, in secondo luogo, occhio. Se raccogliete la malva nell'aiuolo spartitraffico sotto casa o ai giardinetti, non è una buona idea. No, perché la trovate piena di sostanze nocive e inquinanti invece che benefiche. Quindi andate per boschi e prati a camminare, come vi state suggerendo da un'ora, per fare del bene a corpo e mente. Però, imparate a conoscere le piante, ma magari rivolgetevi all'erborista di fiducia se non siete più che sicuri. Grazie dottor Avoledo per essere stato con noi. Potete leggere i consigli del dottor Avoledo sul nostro Daily Lab, a cui mi auguro parteciperà anche il dottor Melegatti. Sicuramente. Allora, in chiusura abbiamo 20 secondi per dire: camminate con giudizio, però camminate, e se non potete camminare, pedalate, ma fate qualcosa e domani tornate qua con me. Buona giornata da Nicoletta, a domani.